Capitolo secondo. Credere in Allah. Ciò che l'uomo può sapere su Allah, sia gloria a Lui l'Altissimo, è solo ed esclusivamente ciò che Egli l'Altissimo ha detto di sé nel sublime Corano, e ciò che su Allah, potente ed eccelso Egli è, ha insegnato il profeta Muhammad, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, nell'esercizio del suo magistero. Dice Allah, rifulga lo splendore della sua luce nel sublime Corano: è Allah stesso il quale rende testimonianza che non c'è divinità tranne Lui. È del tutto evidente che sulla dimensione divina solamente un appartenente alla dimensione divina potrebbe darne informazione all'uomo, dato che la dimensione divina è fuori dal raggio dell'esperienza umana, che delimita il perimetro della conoscenza umana. Ora, dovrebbe essere già chiaro che solamente Allah, rifulga lo splendore della sua luce, possiede la dimensione divina, sicché risulta indiscutibilmente vero e ragionevole che solamente Allah, sia gloria a Lui l'Altissimo, è fonte veridica di informazione sulla divinità, vale a dire su sé medesimo. Egli, Allah, conosce di loro, gli uomini, il passato e il futuro, mentre essi, gli uomini, non sanno di Lui se non ciò che Egli ha voluto far sapere di sé. Alla luce delle osservazioni di qui sopra appare chiaro che la creatura, di cui il Creatore conosce tutta l'esistenza, non può sapere riguardo al suo Creatore se non ciò che il suo Creatore ha voluto far sapere di sé attraverso la rivelazione. Dice Allah nel sublime Corano: sia lode ad Allah, il quale non ha preso figlio e non ha condomino nella sua regalità. Sono parole che non necessitano di interpretazione, essendo chiaramente espresso il concetto della unità, unicità e unipersonalità di Allah, rifulga lo splendore della sua luce, attraverso la smentita esplicita del concetto criptopoliteistico contenuto nel dogma unitrinitario ed esplicitamente politeistico nelle religioni nelle quali la condizione divina è condivisa da più soggetti. Dice Allah nel sublime Corano: e di soggetti divini non ce n'è che uno solo. Allah, sia gloria a Lui l'Altissimo, è l'unico titolare della qualità divina. Dice Allah nel sublime Corano: Allah è unico, Allah è l'Eterno, Egli non generò né fu generato, non c'è nessuno coeguale a Lui. Allah, rifulga lo splendore della sua luce, è l'Eterno, l'unico titolare dell'eternità, il creatore del tempo, nel quale Egli continua la creazione dei viventi con il meccanismo generazionale, meccanismo esclusivo delle creature, alle quali soltanto sono riferibili razionalmente i concetti di padre e di figlio, che necessitano di un tempo che li racchiuda in un tempo nel quale il padre precede nell'esistenza il figlio. Perciò i concetti di padre e di figlio sono completamente estranei alla condizione divina e non si incontrano difficoltà mentali nel capire ciò se non quando si abbia una idea erronea della divinità, cioè un'idea diversa da quella indicata da Allah, rifulga lo splendore della sua luce. Dice egli nel sublime Corano: non c'è cosa come lui, ed egli è l'oniaudiente e l'onnisciente. Ogni realtà che appartiene al mondo dell'esistenza, avendo limiti nel tempo e nello spazio, non possiede la qualità divina. La qualità divina, infatti, ha la dimensione dell'essenza eterna e infinita. Dice Allah nel sublime Corano: non attribuite ad Allah delle condivinità. In verità, l'attribuire condivinità ad Allah è un sacrilegio enorme. Sacrilegio imperdonabile e imperdonato è il riconoscimento della qualità divina a idee, persone, animali, cose, cioè a realtà che appartengono alla dimensione del creato, perché offende il creatore con la manipolazione della verità e il malgoverno della ragione, che è l'elemento con cui egli ha differenziato l'uomo dalla bestia e dall'angelo. Dice Allah nel sublime Corano: se voi sapete che Allah è unico nella sua qualità divina, non attribuitegli coeguali. E dice ancora: Allah è il creatore di tutto ciò che esiste. Con questo Allah rifulga lo splendore della sua luce, vieta di tributare culto divino a creature, essendo tale culto incompatibile con la consapevolezza dell'unità, unicità e unipersonalità di Allah, rifulga lo splendore della sua luce. Allah l'Altissimo è il creatore dell'uomo, ed egli ci insegna nel sublime Corano che l'uomo è stato creato per adorare Allah. Potente ed eccelso egli è. Dice Allah nel sublime Corano: non abbiamo creato gli uomini e i jinn se non perché mi adorino. Dall'insegnamento divino abbiamo appreso che Allah rifulga lo splendore della sua luce, è l'unico creatore, e che perciò l'uomo non deve rivolgere la sua adorazione ad altri che lui. Allah l'Altissimo è l'unico legislatore della sua creazione. Perciò soltanto al codice di vita che egli ha dato all'uomo, l'uomo deve obbedire. Allah sia gloria a lui l'Altissimo, è l'Onnipotente, e lui soltanto ha il potere di soccorrere l'uomo e di fargli le grazie che l'uomo lo implora di fargli. Perciò ogni richiesta di soccorso o implorazione di grazia non deve essere rivolta ad altri che a lui. Allah sia gloria a lui l'Altissimo, è onnisciente, perciò solamente nelle sue parole deve risiedere la certezza della verità. Il profeta Muhammad, che Dio lo benedica e l'abbia in gloria, ha detto: Allah ha 99 nomi, 100 meno uno. Chi li conosce e li mette in pratica entrerà in paradiso. E ha detto: Allah è al di sopra della vostra capacità di comprensione. Perciò non fate meditazione su Allah, ma sulla creazione di Allah. Poiché la qualità divina appartiene soltanto ad Allah, solo ad Allah rifulga lo splendore della sua luce, l'uomo deve obbedire. E l'uomo obbedisce ad Allah solo quando regola la propria esistenza in base al codice di vita islamico, con l'esclusione di qualsiasi azione che sia espressione dell'obbedienza a regole di vita provenienti da fonti diverse dal sublime Corano e dalla nobile Sunna.